24 mattino di Alessandro Milan. Ci siamo anche oggi, eccoci cari ascoltatori, sono le 7:23 minuti in diretta fino alle 9:24 mattino. Saluto il nostro alpino Peter Bescapè, saluto il nostro Diego Rovelli di là del vetro. Tutti già pronti, siamo anche su Twitter, Etalino Milan, eccomi lì, et 24 mattino, siamo noi. Oggi avremo Ipazio Stefano, il sindaco di Taranto, il pistolero John Wayne, gira con la pistola nella cintola, ci spiegherà perché, no? Vendola gli ha chiesto, butta via quella pistola, quella cosa inanimata, in una lettera spettacolare che poi magari vi leggerò. Poi parleremo di un tema molto più serio, la pedofilia e la Chiesa, con le linee della CEI, la Conferenza dei Vescovi, che hanno detto i vescovi non sono pubblici ufficiali, dunque sono invitati certo a denunciare, a seguire, ma non sono obbligati a denunciare gli eventuali casi di pedofilia che coinvolgano sacerdoti. Ne parleremo alle 8:30, ora i giornali in edicola. Giovedì 24 maggio, uno sguardo rapido ai titoli, c'è chi apre sull'Europa, cadono le borse, l'Europa rinvia, questo è il titolo del Sole 24 Ore, per il Corriere della Sera le borse non credono all'Europa, Repubblica, Grecia quasi fuori, crollano le borse, chi sceglie invece la politica come il giornale, PDL apri gli occhi, o il Libero non sanno neppure dimettersi. L'unità, la destra cambia cavaliere. Questi alcuni dei titoli, voglio però andare subito alle notizie, altrimenti non c'è tempo, e poi altri titoli di apertura magari li vedremo più avanti. Una storia emblematica italiana, all'italiana, che Gian Antonio Stella racconta sul Corriere della Sera, pagina 25, il caso dell'avvocato che si candida alla A2A per meriti politici. È la vicenda della A2A, che è una gigantesca azienda multiservizi, per chi non la conosce, magari non è della Lombardia, è nata nel 2008, una capitale sociale di 1.629 milioni, presieduta da Pippo Ranci. La polemica, scrive Gian Antonio Stella, riguarda la candidatura della vicepresidenza Fausto Di Mezza, 40 anni, il cui curriculum, e Gian Antonio Stella fa una polemica sulle selezioni che ci sono in Italia per posizioni apicali di questo tipo. Il curriculum di Fausto Di Mezza, candidato alla vicepresidenza dell'A2A su indicazione bresciana, perché è un'azienda milanese e bresciana, denuncia così il radicale Marco Cappato. Ecco l'incipit, l'inizio del curriculum mandato da Fausto Di Mezza. Nato a Brescia il 12/11/71, figlio dell'avvocato Amilcare Di Mezza, professionista e imprenditore bresciano, e di Gnutti Giuliana, figlia di Cesarino Gnutti, capostipite della notissima famiglia di imprenditori della Valle Trompia. Scrive Gian Antonio Stella, testuale, così. Di Mezza il curriculum con i genitori famosi, seguono poi alcune righe. Nel 1993 fonda il club Progetto di Forza Italia. Nel 1995, a seguito del primo congresso provinciale, viene eletto membro della direzione provinciale del partito. Nel 96 viene designato relatore delle proposte politiche dell'intero Polo delle Libertà. E via così, di incarico in incarico politico, non una pubblicazione scientifica, non una citazione su una rivista straniera, non una medaglia professionale, niente di niente, commenta Stella. Tutta roba di partito. E verrebbe da rispolverare la battuta di cuore e la famosa rubrica «E chi se ne frega?» da commentare a ogni nomina che Di Mezza elenca. Ma scusate, scrive Stella, perché queste cose dovrebbero offrire ai cittadini, anche quelli che non hanno votato mai, qualche garanzia sul fatto che l'avvocato Di Mezza possa essere un buon vicepresidente dell'organo di controllo di una municipalizzata che muove miliardi? Torniamo al tema sollevato più volte da questo giornale. Basta con le nomine ai vertici delle società pubbliche di persone che vantano come unica professionalità l'appartenenza a questo o quel partito, quale che sia, basta. Li cerchino sul mercato gli uomini che servono a far funzionare le aziende, che appartengono ai cittadini, agli azionisti, con bandi pubblici europei. Gente che porti curriculum vitae di spessore, che abbia studiato, fatto esperienza all'estero, gestito fabbriche e uffici, o almeno, se vogliono continuare a farle nomine così, abbiano il pudore di smetterla di chiedere curriculum di tale fatta. Insomma, questa è la vicenda dell'avvocato che si candida alla A2A per meriti politici e cita i genitori famosi. Sul Corriere della Sera, pagina 25. Poi voglio balzare proprio per sorridere, ma anche sì, dai, su quello che il Secolo XIX mette in prima pagina. Tradire la moglie fa male al cuore. Colpa del senso di colpa. A parte, vabbè, la ripetizione della stessa parola nel titolo, che in qualsiasi scuola di giornalismo verrebbe segnalato con una penna rossa. Comunque, Giuliano Galletta, prima pagina del Secolo XIX, la scienza, con la S maiuscola, ha stabilito un rapporto diretto tra amore e cuore. Si tratta, è vero, di amore extraconiugale, ma sempre amore è. Uno studio dell'Università di Firenze, durato 12 anni, pensate, ha sancito che l'adulterio fa male al cuore, nel senso del muscolo, il muscolo al cuore, soprattutto i maschi, ai maschi che tradiscono la moglie con partner più giovani. I fedifraghi rischiano l'infarto o addirittura la morte coitale, che è decisamente più ricorrente con l'amante piuttosto che con la moglie. Questi dicono i dati esaminati in 12 anni di appassionati e approfonditi studi dell'Università di Firenze. E il cuore spezzato, nel vero senso della parola, commenta Il Secolo, non è perciò quello della tradita, ma quello del traditore, magari non più giovanissimo, che viene quindi coinvolto e non è all'altezza di questa relazione pericolosa. Conta infatti lo stress morale, poi originato dal senso di colpa, e soprattutto il rischio di morte coitale. Tradire la moglie fa male al cuore. Così ha sentenziato la scienza, l'Università di Firenze. Alle 7:36 minuti tutti gli occhi dell'Europa sono puntati sulla Grecia. Intanto le borse affondano e tutti sono puntati sul Grexit. Imparate questa nuova parola che da qualche giorno si sta facendo strada sui giornali. Cioè l'uscita della Grecia dall'euro, Grexit, questo acronimo, la Greek Exit. E tutti si interrogano, eurozona senza Grecia, voci smentite sul piano B, così a pagina 2 del Sole 24 Ore, secondo Vittorio D'Arolda, secondo tutti gli analisti dei giornali, c'è un giallo sulla crisi ellenica e la possibile uscita della Grecia e di Atene dall'eurozona. Secondo, infatti, indiscrezioni, ogni paese membro dell'eurozona dovrà preparare un piano di emergenza in vista dell'eventuale uscita di Atene dall'eurozona. Lo avrebbe indicato lunedì durante una teleconferenza i funzionari del tesoro dell'Euro Working Group, il team di lavoro dell'Eurogruppo. E così avrebbero detto gli Sherpa, cioè coloro che preparano gli incontri, che preparano i meeting dei ministri delle finanze europee nella capitale belga. Una vera e propria fuga di notizie che poi è stata smentita, non esiste nessun piano di questo tipo. La realtà è che anche per Repubblica, a pagina 3, ogni Stato realizzi un piano per sopportare l'uscita di Atene. L'ultimo allarme è stato lanciato da Bruxelles. L'idea è questa, cioè la Grecia è già fallita da questo punto di vista, è già al default e si tratta solo di capire, come si dice da mesi, non se ma quando uscirà dall'eurozona, e dunque gli stati europei dovrebbero attrezzarsi per questo. La situazione economica, certamente, con le borse anche che sono crollate, Milano ha perso il 3,68, lo spread è salito a 428, la moneta unica, l'euro, è sotto l'$1,26, a livelli del 2010, a livelli bassissimi. Insomma, Atene fa tremare le borse, fa tremare l'euro. Trovate con Vittorio Carlini e Luca Davi il commento sul Sole 24 Ore, a pagina 3 della giornata finanziaria negativa, molto negativa, e tutti gli occhi sono puntati allora a quello che succederà nei prossimi giorni. Venendo invece qui in Italia, ieri è stata la giornata del ventennale di Capaci, tante parole, tante belle parole, tante retoriche parole. Registro, visto che ha avuto uno straordinario successo la puntata che abbiamo fatto 2 giorni fa con l'autista di Giovanni Falcone, Giuseppe Costanza, utilizzato, ha servito lo Stato, ha dato quasi la vita perché è saltato anche lui in aria Capaci, era a bordo della macchina con Falcone e la moglie, eppure la gente non lo sa, se lo dimentica, è stato abbandonato, è stato escluso. Ecco, registro, tra le tante parole, tante pagine, nemmeno una riga una riga, una citazione per Giuseppe Costanza. Avanti così, l'anno prossimo saranno 21 anni e avanti con i soliti palcoscenici dove ci sono tante belle parole e tante parole gonfie di retorica che ha stancato. Nel giorno dell'anniversario di Capaci, nel ventennale di Capaci, fa specie però l'allarme lanciato dal capo dei servizi segreti, il prefetto Giorgio Piccirillo, direttore dell'Agenzia Informazione e Sicurezza Interna, l'AISI, i servizi interni appunto, che in Parlamento ha detto: attenzione, gli anarchici colpiranno ancora, ora nel mirino ci sono giudici, ci sono le banche, una lista a largo raggio dei possibili obiettivi, certamente colpiremo ancora, hanno detto con la rivendicazione che è stata mandata al Corriere della Sera, il gruppo che ha colpito, che ha rivendicato l'attentato nei confronti dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, e l'AISI, l'Agenzia di Intelligence Interna, prende sul serio questa rivendicazione a dire: attenzione, ci saranno nuovi rischi di attentati. Vi segnalo per esempio Guido Ruotolo sulla Stampa: i nuovi ribelli di piazza che spaventano l'intelligence, gli 007 parlano di situazione sociale ed economica che può creare conflitti, e dunque c'è una galassia che viene analizzata. Per esempio, il primo appuntamento il 28 maggio, tra 4 giorni, tornerà a scendere in strada la protesta dei forconi, ve li ricordate, quelli che hanno paralizzato per qualche giorno la Sicilia e non solo? Ebbene, c'è grande attenzione per quello che potrà succedere, per questa galassia di anarchici, di gruppi pronti a protestare, anche sfruttando la situazione economica e sociale di grande tensione. Certo, la risposta dalla politica è una risposta di un sistema molto frammentato che sta un po' implodendo, sta collassando. Le ultime vote alle amministrative hanno dato una scossa fortissima ad alcuni partiti, la Lega e il Popolo della Libertà su tutti, in termini di voti si stanno, almeno il Popolo della Libertà, proprio disfacendo. Guardate, oggi ancora continua la polemica dopo che ieri Silvio Berlusconi è intervenuto, era a Bruxelles per l'intervento dei vertici della riunione dei leader popolari europei, e Berlusconi ha detto: mi candido, ma me lo domando anch'io. Certo, ha escluso quello che dai giornali ieri sembrava il ritorno di Berlusconi: escludo una mia ricandidatura a premier, ha detto Silvio Berlusconi. Ma guardate per esempio i giornali come Libero e Il Giornale, molto attenti ovviamente alla galassia politica del centrodestra. Libero è durissimo con Maurizio Belpietro e il suo editoriale: non riescono neanche a dimettersi, questo è il titolo. Ce l'ha con Bondi, Sandro Bondi, che ieri uno dei coordinatori del PDL ha annunciato le dimissioni, poi rientrate perché Alfano e Berlusconi hanno respinto le dimissioni di Bondi. Me ne vado, anzi no, Bondi legato alla sedia. Ma sentite anche come tuona Giancarlo Galan, uno che è un po' fuori a livello di incarichi, non è più ministro, non è più presidente della Regione Veneto. Ha intervistato da Alessandra Longo per Repubblica, dice: ora Silvio deve cambiare tutto, azzerare il segretario, i coordinatori, ci vuole proprio un altro partito. Io farei come per i ristoranti, dice Galan, quando si scrive nuova gestione. Ma io cambierei tutto, il cuoco, i camerieri, il maître di sala. Berlusconi è ancora il migliore, ha annunciato una mega sorpresa per la settimana prossima, io non ne so nulla, staremo a vedere, ma ci vuole proprio un nuovo partito con nuove persone, nuove facce, nuove figure. Secondo Repubblica, sempre su Repubblica, pagina 11, Francesco Bei svela, è singolare che lo faccia Repubblica, un giornale contro cui anche ieri hanno tuonato i vertici del Popolo della Libertà dicendo c'è qualcuno che vuole infangare, vuole avvelenare i pozzi, non ci faremo mica dimettere per pressioni di giornali. Sta di fatto che Francesco Bei su Repubblica racconta in questo retroscena: eccola la svolta che annuncerà Alfano o Berlusconi comunque la settimana prossima, quella di creare un listone nazionale di società civile. Nemmeno un politico candidato, si dice che abbia già selezionato 300 nuovi volti, in gran parte imprenditori ma anche giovani presi dal vivaio del Partito Popolare, professionisti, li ha incontrati uno a uno il lunedì ad Arcore, una riedizione di Forza Italia se si vuole, insomma una dirigenza nuova, guai a chiamarlo partito perché di sti tempi basta dire la parola partito e gli elettori fuggono a gambe levate. e questa sarebbe l'idea. A capo di tutta la macchina ci sarebbe l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. Questo secondo Repubblica. Dunque un listone nazionale in vista delle elezioni dell'anno prossimo, 300 nuovi volti guidati da Guido Bertolaso. Questo sarebbe il nuovo popolo della libertà. Ma staremo a vedere. Giuliano Ferrara oggi in prima pagina del Foglio dice: ecco come evitare una fine ingloriosa. Berlusconi non deve rientrare, perché cosa fa? Rientra e si intesta l'uscita dall'euro? Rilancia la crescita fondando il suo discorso sul vecchio antifiscalismo liberale delle origini, annuncia una nuova rivoluzione di idee e di progetti fondata sulla libertà d'impresa. Chi non ha portato il cervello all'ammasso sa che questo non è possibile, non è credibile, è sconclusionato. E allora cosa dovrebbe fare Silvio Berlusconi? Per Giuliano Ferrara è questa: Berlusconi deve fermare la valanga della demagogia piccolo politico, piccolo politica e piccolo partitica, prendere in mano le redini e delegare tutti i poteri possibili a un nucleo di classe dirigente che ha un solo compito: essere conseguente a quel che si è fatto per dare una mano a un paese in grave difficoltà, guardando oltre l'orizzonte della piccola apparente convenienza dell'attimo già fuggito. Insomma, deve fermare la valanga della demagogia e delegare i poteri a un nucleo di classe dirigente. Questo dice Ferrara. Non si discosta molto dalla linea che dice Repubblica, cioè fare un listone nazionale e volti nuovi, giovani. Intanto continua il momento di Beppe Grillo. Momento di Beppe Grillo, c'è una polemica sul fatto che il sindaco di Parma dice: facciamo noi, siamo stati eletti noi. Ora c'è un po' la rivolta del Movimento 5 Stelle sulla rete, che dice: ma chi ti credi di essere? Tu, insomma, non è che adesso hai preso il potere a Parma e puoi fare quello che vuoi. Ma c'è anche una norma che è spuntata ieri con un giallo e dipinta così dai giornali: i partiti hanno inventato un emendamento anti-Grillo, una norma anti-Grillo. E che è? Lo scopriamo tra poco. Allora, cosa sarebbe questa norma anti-Grillo per Repubblica? Addirittura per la stampa, mossa anti-Grillo del Parlamento, Carlo Bertini a pagina 13. Il Secolo XIX ci fa il titolo di apertura di prima pagina: i partiti negano i soldi a Grillo. È che nella sforbiciata, anzi sforbiciatina, un po' vergognosa, una piccola sforbiciatina di parlamentari che hanno votato ieri, e cioè si scenderà, credo, da rimarranno 508 deputati e 254 senatori, questo nella volontà, cioè proprio hanno limato con la lima per le unghie, hanno anche votato un emendamento nel quale si dice: i partiti che vogliono i rimborsi elettorali devono avere uno statuto con regole democratiche, uno statuto vero, efficace. Allora è notorio che il Movimento 5 Stelle ha quello che viene pubblicato sul web, 7 punti come non statuto, e subito dire la norma anti-Grillo. Ma tanto Grillo e il Movimento 5 Stelle non li vuole questi rimborsi, quindi certo sarebbe a dire: se vuoi rimborso elettorale devi strutturarti con uno statuto come un vero partito. In questa è una mossa anti-Movimento 5 Stelle, però il Movimento 5 Stelle ha sempre detto: noi i rimborsi elettorali li rifiutiamo. Per cui non so quanto sia una mossa anti-Grillo. Forse ha ragione l'esponente, quello che si era candidato a Genova del Movimento 5 Stelle, Putti, che dice al Secolo XIX: tanto noi non li abbiamo mai presi, mai li chiederemo. Ma questo dimostra che i partiti sono veramente allo sfascio se fanno delle mosse disperate di questo tipo. In ogni caso, a proposito di Grillo, mi ha colpito molto l'idea che ieri hanno lanciato a Parma di lanciare una moneta parallela all'euro. Sapete che Grillo dice: vogliamo uscire dall'euro, e su questo Massimo D'Alema ha detto: pensate una forza politica che arriva in Parlamento con l'idea: non paghiamo il debito pubblico e usciamo dall'euro. Sarebbe una catastrofe. Con Grillo sarebbe il crack, adesso ha detto Massimo D'Alema. Comunque vi segnalo un articolo sul Messaggero in prima pagina di Davide Desario: la moneta unica di Montesacro c'è già a Roma, nel quarto municipio di Roma, dove Cristiano Bonelli del Popolo della Libertà ha inventato questa misura, lo SCEC. Lo SCEC è un acronimo serve, significa solidarietà che cammina, serve a mantenere moneta all'interno del quartiere, nata contro la grande distribuzione per sfavorire i commercianti di quartiere. Lo scheck funziona così, è un banale e colorato pezzo di carta che permette di ancorare gli euro al commercio locale. Un commerciante decide di aderire liberamente al circuito erogando uno sconto al cittadino. La cosa di per sé accade ovunque, anche con percentuali maggiori, ma è uno sconto a perdere. Facciamo un esempio: il pizzaiolo, se fa uno sconto del 10% su una spesa di 20 euro, ha perso 2 euro. Con gli scheck, invece, quello sconto viene certificato con pezzi di carta. Dunque il pizzaiolo incassa 18 euro e paga le tasse per 18 euro, ma incassa anche 2 scheck. Gli scheck che ogni commerciante incassa possono essere spesi nel circuito messo in piedi a livello locale, di quartiere, cosicché il pizzaiolo che ha riempito la cassa di scheck può spenderli per comprare magari i fiori di zucca o la passata di pomodoro non al supermercato ma dal fruttivendolo del quartiere. Insomma, si ottiene una riduzione dei prezzi e si mantiene la liquidità nel quartiere. È questo lo strumento che vogliono utilizzare? La moneta unica di Montesacro, lo trovate sul Messaggero, una moneta alternativa. C'è poi una polemica di cronaca, ma è diventata politica, che prende oggi molte pagine di giornale, riguarda la nuova discarica di Roma che si vuole fare. La discarica di Malagrotta è al colmo, si rischia concretamente che ci siano i rifiuti di Roma per le strade, e allora il governo ha deciso di far aprire una discarica. Dove? Beh, in un'area che è vicina al castello di Corcolle e soprattutto è vicina agli scavi archeologici di Villa Adriana, patrimonio dell'UNESCO da qualche anno. Discarica a Roma, da Monti, fiducia al prefetto, così titola pagina 18 Il Sole 24 Ore. Questa decisione ha scatenato un putiferio di polemiche. Guardate qui, Sergio Rizzo, il pasticcio di Villa Adriana, la discarica divide il governo. Carandini, che è il presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, si è dimesso immediatamente, cioè mettere una discarica a pochissima distanza in linea d'aria, circa un chilometro da uno degli scavi più importanti dell'Italia e soprattutto vicina anche al passaggio dell'acquedotto che serve Roma. E il ministro alla cultura Ornaghi fa un'intervista a Repubblica, pagina 22, e dice: se insistono nel voler localizzare a Corcolle una discarica, troveranno un ministro più disponibile, io non ci sto. Insomma, il ministro Ornaghi annuncia la possibilità concreta di dimissioni su Repubblica. Trovate tutte queste polemiche sui giornali. Voglio andare in flash. Tre notizie, o quelle che riesco. La retromarcia di Fassino. Non sposerò l'ex terrorista. Non unirà in matrimonio civile l'ex terrorista Nicola D'Amore. Trovate sulla Stampa, dopo le polemiche, a pagina 18, anche i familiari delle vittime di D'Amore hanno detto non lo faccia. E lui non lo farà. Una vergogna invece, Eternit, l'ultimo schiaffo alle vittime, pagina 17 di Repubblica, i proprietari dell'Eternit condannati a pagare hanno detto e noi non paghiamo. Vergogna. E infine Renzo Bossi ha inguaiato l'Università di Tirana. Per la famosa laurea comprata dal Trota, l'Università Crystal ha visto ritirata la sua licenza di università dal governo di Tirana. Il governo albanese, l'ultimo guaio del Trota, ha inguaiato un'università albanese. 24 mattino. Sono le 8:23 minuti, eccoci qua. Voglio, ben ritrovati da Alessandro Milan, voglio subito salutare l'ospite di oggi, il primo ospite, il sindaco di Taranto, Ipazio Stefano. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Confermato sindaco, segni particolari, medico, ex volontario in Africa, segni particolari però sindaco pistolero. No, guardi, no. Io voglio dire con molta fermezza che modestamente me lo permetta di dire, sì. Io ho sempre mantenuto il mio fermo proposito di non avere privilegi, ma non da adesso, da quando sono stato eletto 5 anni fa. Che cosa voglio dire? Che non ho mai adoperato la macchina di servizio, che non ho permessi per le corsie preferenziali e che ho rinunciato a tutti i privilegi e forse anche a qualche diritto. No, ma io mi riferivo all'immagine che ha già fatto il giro del mondo, con la pistola perché. Nella cintura. Certo. Poi voglio anche dire che non voglio far ricadere sugli altri eventuali pericoli che possono coinvolgere la mia persona. Io ho ricevuto una lettera di minacciosa, molto pericolosa, per me e la mia famiglia, l'ho ricevuta durante la campagna elettorale, però non ho voluto strumentalizzare, sì. Né ho voluto mettere l'indice verso i concorrenti e non ho voluto neanche, voglio dire, far giudicare mai la mia città, perché ho ottenuto in silenzio, dopo aver fatto la denuncia, questa brutta situazione, sì, di minaccia alla mia vita. Ma questo sì, sindaco. Attenzione, una minaccia che non era riguardata a comportamenti, era una minaccia, diceva ti devi ritirare dalla campagna. E questa è una cosa gravissima. Ora, è una cosa gravissima. Anziché pensare a questo, si sta a pensare che una persona legittimamente, in un momento di emozione, con un regolare porto d'armi, cerca, senza dare fastidio alle istituzioni, sì, perché questo è il principio fondamentale, forse sbagliando, nel senso che uno non può difendersi da solo, di mettere la ma pistola. Io non ho fatto, io, era una fotografia, no, ma, fatta tra sindaco, l'altro, ma era tutto regolare, no, ma lo so, ma è tutto regolare, lei ha il porto d'armi eccetera, però l'immagine, capisce, lei le minacce subite, l'immagine su in base a quello che sono i fatti, non in base a quelle che sono le impressioni, La ragione dell'uomo esiste per questo, altrimenti saremo come l'ameba che reagisce alla puntura del lago, ma il cervello umano è fatto di tanti neuroni che devono funzionare. Ma questo sì, sindaco, però capisce che lei, pacifista, medico pediatra, è stato volontario in Africa, anche Vendola, leader di minaccia di morte, no, per la tua famiglia. E che fa? Mette la pistola, gira gli italiani ragionano come ho ragionato io in quel momento. Ma no, scusi, ma lei c'è minacciato, che fa uno? Dovrebbe mettere la pistola alla cintola, girare così? No, io non giravo così, stavo in una casa, in pratica era la sede, l'ultima stanza della sede elettorale, è stata in pratica una fotografia scattata mentre eravamo fra amici e certamente si è aperta la giacca in un momento, l'unico momento, guardi, di serenità, perché noi non abbiamo festeggiato, perché per solidarietà con gli amici dell'Emilia Romagna e in particolare del Ferrarese e per la morte della ragazza di Messina. Però lei ha detto che in realtà la porta da anni, cioè non è la prima. No, attenzione, che ce l'ho da anni, ma l'ho portata da quando sono stato minacciato. Ah, dagli ultimi mesi, le ultime settimane. Però capisce, lei dice io non voglio disturbare le istituzioni, non voglio la scorta, no? Però la risposta deve essere quella, una pistola, e se uno ha una pistola immagino che sia carica e pronta a usarla anche, no? Beh, no, guardi, inoltre anche, dico, sei mi arrugginita, ma se è un fatto più psicologico di, diciamo, autodifesa. In ogni caso, voglio dire, ci sta una legge in Italia che garantisce questo, che comprendo che forse un sindaco, ma io per tutelare i giovani della polizia, dei carabinieri che eventualmente avrebbero dovuto fare la scorta, ho preferito così. Anche perché, devo dire la verità, e voglio ribadire il concetto che penso sia stata la stoltezza di qualcuno che ha tentato più di evitare di farmi fare la campagna elettorale minacciandomi di morte. Cioè lei ha preferito fare così una sicurezza sua psicologica, la tiene lì, ma che vuol dire arrugginita? Non l'ho mai adoperata. Però è funzionante, no? È carica anche, immagino. Sì, ma voglio dire, mi auguro, come non l'ho mai adoperata, mi auguro di, adesso a parte non la porto, ma voglio dire, mi auguro, perché è tornato il clima sereno in questa città, in città mi abbracciano e mi baciano, quindi è finita la campagna elettorale e basta, e ripone l'arma, riponiamo l'arma. Quindi lei, cioè, adesso noi la stiamo chiamando a casa, lei poi mette giù, esce di casa, che fa? Se la porta presso oggi? Ho detto che abbiamo riposto, l'ascia di guerra l'abbiamo sotterrata come gli indiani. Sindaco, ma che ha fatto? Secondo lei è stato un errore, un'ingenuità? Cioè lo rifarei? Forse un'ingenuità, nel senso che ho pensato di non disturbare gli altri, un eccesso di delicatezza nei confronti degli altri, e quindi probabilmente, come può capitare nella vita, uno può sbagliare. Può sbagliare. Ma ripeto, questo sbaglio è relativo, perché esiste una legge che tutela, ci sono milioni di cittadini in Italia che hanno il porto d'armi, milioni di commercianti che rischiano e che ritengono di doversi tutelare loro e la loro famiglia. famiglia. Quindi è stata un'emozione del momento, e che voglio dire, io mi preoccuperei invece, come mai non ci si preoccupa che un sindaco viene minacciato di morte? Ah no, ma questa sì, ma questa, questa è una cosa gravissima. Si enfatizza in alcuni non si parla in altri, e si parla ma no, ma sindaco, ma la minaccia almeno psicologicamente, ma no, ma la minaccia è una cosa gravissima. Capisce che è il classico caso in cui la risposta alla minaccia diventa una notizia ancor più della minaccia, perché ma la risposta è stata soltanto una cosa rubata mentre eravamo in una casa, in pratica non eravamo nel Far West in piazza a ostentare, però c'è una foto, c'è una foto, voglio essere proprio veramente sincero, però mi scusi sindaco, non apprezzo molto chi ha fatto la fotografia in casa, però sindaco mi scusi, c'è una sua foto, c'è una sua foto oggi sia sul Fatto Quotidiano che su Libero, che la ritrae, cioè che cammina in mezzo alla gente in questo... ma lì non si vede nulla, si vede il calcio della pistola, si vede un pochino, fotografia si intravede dentro, che stiamo brindando, sì. 10 secondi si intravede già lì per strada, forse bene, ha aperto un attimo problema, la giacca, guardi, perché uno che c'ha il porto d'armi la può portare, punto. Il problema è, mi preoccupo invece, perché non parliamo di problemi del nostro sud, che non se ne occupa nessuno, c'è gente senza casa, senza lavoro, perché questa disperazione porta le persone anche per bene a presentare male le loro istanze. L'unica istituzione che hanno di fronte, che è il sindaco, che è disarmato non dell'arma, è disarmato di cose che può fare per i poveri, per i bisognosi. Perché non parliamo di queste cose? Allora, facciamo... Perché non parliamo di io il giorno dopo alle 7 ero al lavoro per servire la mia città? Ma su questo così, allora sindaco, sai che facciamo? Siccome io qua adesso mi devo interrompere, le prometto, la reinvito e parliamo anche di queste cose. Deponiamo l'arma, grazie e un abbraccio a tutti. A lei sindaco. Grazie. E lascia a casa l'arma, ovviamente, come ci ha detto il sindaco di Taranto Ipazio Stefano, immortalato in questa foto, e porta la pistola alla cintura perché dice ho subito delle minacce. È stata una difesa psicologica, ma ha riconosciuto anche l'errore. Allora noi parliamo di un tema ben più profondo, delicato, la pedofilia e la Chiesa. I vescovi hanno dato delle indicazioni, linee guida su come comportarsi ai propri vertici ecclesiastici in caso di casi di pedofilia che importino anche che coinvolgano dei sacerdoti. Ha fatto molta polemica questo titolo sui giornali. Non c'è l'obbligo di denuncia per i vescovi, ne parliamo tra poco. 800 24 00 24. 24 mattino. Alle 8:38 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Allora, un paio di giorni fa la Conferenza Episcopale Italiana, vale a dire i vescovi, hanno annunciato le linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, vale a dire parliamo di pedofilia, i casi di pedofilia nella Chiesa. Ovviamente il titolo che ha colpito molti giornali è stato questo: la mancanza di obbligo di denuncia da parte dei vescovi, nel senso che non essendo pubblici ufficiali non possiamo chiedere a loro di diventare pubblici ufficiali. Certo, i casi di pedofilia vanno seguiti, vanno seguite le persone ovviamente che sono i carnefici, però non c'è questo obbligo di denuncia. Cos'è una mancanza di coraggio da parte della Chiesa? Di questo vogliamo parlare, lo facciamo con Marco Politi, che è vaticanista del Fatto Quotidiano, che saluto. Buongiorno Politi e benvenuto. Buongiorno a tutti. Tra l'altro ha scritto anche l'anno scorso Josef Ratzinger, Crisi di un papato, è stato anche molto critico ieri nel suo commento sul Fatto Quotidiano. Saluto la professoressa Lucetta Scaraffia, buongiorno. E ben ritrovata, editorialista dell'Osservatorio Romano, insegna anche alla Sapienza di Roma, storia contemporanea. Politi, perché lei è stato critico? Il titolo, so che il titolo non è mai dell'articolista, i vescovi non vogliono indagare, ieri titolava il Fatto Quotidiano con il suo commento, è questo il punto che fa più scalpore, la mancanza dell'obbligo di denuncia? No, il titolo riflette benissimo quello che è il mio pensiero e quello che è un dato di fatto. Io credo che dobbiamo partire in questa questione non da una visione astratta su quello che devono fare i vescovi o su quelle che è la situazione interna della Chiesa. Noi dobbiamo partire dal punto di vista del bambino o del minore. Questi sono crimini gravissimi, sono dei delitti. Allora, ogni organizzazione deve attrezzarsi nel modo migliore per combattere questi crimini. Allora, in altri paesi le conferenze episcopali hanno istituito delle commissioni d'inchiesta per sapere cosa è successo nel passato. Per esempio, la conferenza episcopale tedesca, il cui presidente 2 anni fa fu ricevuto dal Papa e incoraggiato a proseguire nel loro lavoro, che prevedeva già una revisione delle linee guida che loro già avevano fatto nel 2002, quindi prima che scoppiassero i grandi scandali, la conferenza episcopale tedesca ha un vescovo responsabile nazionalmente per il dossier di pedofilia dei chierici, ha istituito l'obbligo per ogni vescovo di avere nella propria diocesi un referente e ha dato recentemente tutte le schede personali dei preti che avrebbero potuto avere delle responsabilità in questo campo ad una squadra di ex procuratori e di ex poliziotti. Dice, c'è una volontà di affrontare il problema. Sì, perché facessero uno screening. Ecco, in Italia, con queste nuove linee guida, certamente i vescovi sono esortati a ascoltare le vittime, ad allontanare subito il prete eventualmente colpevole, di cui comunque si tiene presente anche la presunzione di innocenza, da un contatto con i minori, ma non è stato istituito e non viene chiesto di istituire nelle diocesi un numero verde, un responsabile, una commissione d'inchiesta come c'è in altri paesi. L'ha fatto, credo, la diocesi. La conferenza episcopale italiana da questo punto di vista è molto timida e paurosa. Ha mancato di coraggio. L'ha fatto, credo, la diocesi di Bressanone, lei lo ricordava nell'articolo, cioè la diocesi di Bressanone ha messo appunto un numero verde, però è l'unico caso in Italia, diciamo, c'è questa mancanza di coraggio o mancanza di volere indagare a fondo. Ecco, professoressa Scaraffia, è giusto l'impostazione a dire, ha colpito sui giornali questa mancanza di obbligo di denuncia perché i vescovi non sono pubblici ufficiali, come non sono io, come non è lei, però basta questo di fronte a crimini così orribili per dire non c'è l'obbligo? Certo, incoraggiamo, ma l'obbligo di denuncia non c'è. Ma guardi, come ha detto Politi prima giustamente, l'obiettivo di tutte queste norme è quello di sconfiggere questa piaga della pedofilia, quindi bisogna discutere qual è il modo migliore. Sicuramente in questo documento della Conferenza Episcopale Italiana traspare, diciamo, molto fortemente la paura di una caccia alle streghe, cioè di una troppo veloce denuncia, troppo veloce accusa in una materia così scivolosa e difficile. Sicuramente quello del numero antipedofilia credo debba essere istituito però dalle diocesi e non dalla CEI in generale, perché non ha alcun senso che esista un numero per tutta Italia, ovviamente deve essere una cosa locale, potrebbe essere un buon modo. L'obbligo di denuncia potrebbe essere anche frettoloso, poi forse anche loro si confrontano con la giustizia italiana e non con la giustizia tedesca e quindi potrebbe anche rovinare degli innocenti. Pensiamo per esempio anche proprio a un episodio recentissimo, quello degli interrogati per il caso di Brindisi, delle bombe di Brindisi, in cui insomma la folla quasi rumoreggiava per linciarli, persone che non c'entravano proprio niente. Cioè, bisogna, su questo tema della pedofilia la situazione è delicatissima. A me sembra che la vera rivoluzione dal punto di vista proprio della culturale, quella di dar voce alle vittime, di ascoltare le vittime, però, perché finora le vittime non erano ascoltate. Però l'obbligo di denuncia, per esempio, si è discusso molto sul concetto di un segreto o di un'eventuale ammissione fatta in confessione. Secondo lei, se un sacerdote viene a sapere in confessione che un chierico, un altro sacerdote commette o ha commesso o intende commettere questo tipo di reato, dovrebbe violare il segreto confessionale, che è un segreto ovviamente sacro per la dottrina della Chiesa? Non lo può violare, però può negare l'assoluzione al sacerdote. Però il sacerdote che non ha l'assoluzione non può avvicinarsi ai sacramenti, quindi non può più dire messa, quindi non è una cosa così da poco. Non è da poco, però voglio dire per la sua coscienza, tutto viene all'interno della coscienza, perché non può dirlo pubblicamente, però non si può, diciamo così, cambiare lo statuto di un sacramento fondamentale della Chiesa. Lei sa che ci sono confessori che sono morti per non violare questo segreto segreto, quindi mi sembra una cosa molto seria. Però in questo senso anche molto serio è anche il reato, è sempre nell'ottica sì. della difesa delle vittime. Come ma penso che poi possa però può andare a dire a guardarlo con occhio più attento, andarlo dire date un'occhiata lì, cioè ci sono delle forme che non sono, diciamo così, andarlo a denunciare, ma che sono allertare le persone che possono diciamo così, cioè dire lanciare un campanello d'allarme, sì, ma non dire mi è venuto a dire in confessione questo e quindi andare dal magistrato. Questo è su questo punto, e da qui vorrei ripartire tra un attimo dopo le informazioni sul traffico a Marco Politi, se anche in questo c'è una mancanza di coraggio oppure un dovere del rispetto della sacralità di una dottrina che la Chiesa ha, non è che ce l'ha da 2000 anni, non è che la si può prendere e buttare nel cestino così, però di fronte a emergenze e crimini di questo tipo, chiaro che tutti ci interroghiamo. Allora, eccoci qua con Marco Politi, vaticanista del Fatto Quotidiano. Due cose mi hanno colpito di quello che ha detto la professoressa Scaraffia, cioè la caccia, il rischio di caccia alle streghe e poi insomma questo punto che è quello che ha attenzionato più i giornalisti e anche l'opinione comune, la mancanza di obbligo di denuncia, la questione anche della confessione, come va gestita, c'è una gestione della dottrina sacra e c'è una gestione del sentire delle persone comuni politi. No, io credo che la questione della confessione sia un caso limite, è chiaro che va rispettato il segreto confessionale così come si rispetta il segreto professionale di uno psicanalista a cui si rivolge un paziente, ma i problemi reali che sono successi in migliaia di casi, perché ormai sono documentati in tutte le parti del mondo, è che spesso queste cose si sanno a metà e non interviene nessuno. Io ho seguito il caso di una ragazza che era già maggiorenne ma che era psicologicamente molto fragile e che veniva abusata sistematicamente da un prete, e quando lei è andata a confidarsi da un altro sacerdote, questo sacerdote è anche intervenuto con una lettera a questo suo confratello dicendo tu non ti stai comportando bene, ma per esempio non ha denunciato questo prete al vescovo stesso. E quando il vescovo finalmente è stato informato da questa ragazza che finalmente ha trovato un'avvocatessa che l'ha seguita eccetera, poi non è stato fatto un processo, sto dicendo canonico come dovrebbe sì. essere fatto contro questo prete abusatore, ma è stato semplicemente offerto alla ragazza, dice va bene, questo prete abusatore è disposto a fare un'offerta a una onlus, di tu il nome. Però, di questa onlus. Politi, la Chiesa ecco. dice sono errori che sicuramente ci sono stati del passato per il quale si vuole cambiare linea, è davvero così? Cioè c'è una volontà di dire sono stati compiuti degli errori, sono stati fatti degli insabbiamenti sbagliati nel passato ma ora non deve essere più così? C'è questa volontà di cambiamento o no? C'è la volontà da parte di Benedetto XVI di voltare pagina, questo è chiarissimo, lui ha scritto anche una lettera molto chiara ai cattolici irlandesi, ma valeva per tutto il mondo, dicendo che molto spesso per un malinteso senso di difesa del buon nome della Chiesa non si sono ascoltate le vittime. Però poi noi dobbiamo andare nel concreto. Io non credo che nella diocesi di Monaco, retta da un cardinale che è stato nominato recentemente da Benedetto XVI, c'è anche un nome buffo, si chiama Marx, beh, il cardinale Marx ha istituito una commissione d'inchiesta autonoma, affidata a una donna, a un'avvocatessa, che ha scoperto che dal dopoguerra ad oggi c'erano 300 casi di abusi che erano stati nascosti. Questo non è una caccia alle streghe, è un fatto interno della Chiesa, ma ha dato subito il segno di come si affrontano seriamente questi casi. Ora, questa volontà appunto di indagare, di fare pulizia anche per il passato e quindi di dare un riconoscimento alle vittime, nella Chiesa italiana fino ad oggi non c'è. Ricordo anche un intervento su un editoriale di Lucetta Scaraffia sull'Osservatore Romano dove diceva che se le donne avessero più voce in capitolo in questa materia molte cose probabilmente questo sarebbero state evitate. Lo disse, per esempio in Inghilterra nelle parrocchie sono state istituite dei gruppi di vigilanza in cui ci sono molte donne che aiutano anche ad affrontare questo fenomeno. Anche queste indicazioni non sono lo disse anche in una nostra precedente trasmissione, professoressa Scarafia, questa linea che immagino lei voglia ribadire, sì, cioè l'idea se ci fossero più donne Anche perché le donne, insomma, è rarissimo che siano delle molestatrici di bambini, le donne in genere proteggono i bambini. Poi solo che la Chiesa per tradizione e storia è un ambiente prevalentemente maschile. Le donne sanno cogliere le cose anche senza che glielo dicano, molto più degli uomini, secondo me. Poi sa, c'è anche un fatto che le donne non hanno problemi di potere, di spiacere un vescovo, di fare una cosa che non piace a un altro, e quindi sono più libere nella Chiesa. Questa è una grande qualità. E anche però bisogna ricordare che le molestie non sono solo nella Chiesa, le molestie sono state nelle famiglie, lì le donne hanno vegliato contro le molestie degli uomini. Ma per carità, capisce che nella Chiesa appaiono ancora più odiose per il messaggio che un uomo di Chiesa dovrebbe portare, e anche perché in passato è innegabile, immagino anche da lei ci sono stati dei casi di insabbiamento enormi che poi sono fuoriusciti. Questo è chiaro, ma poi anche nelle famiglie, io mi ricordo che insomma c'era tutta una cosa che le bambine non si lasciavano con gli uomini più grandi, cioè era una cosa proprio, non si diceva, ma era un'attenzione che esisteva. Invece lì purtroppo la Chiesa non ha seguito neanche queste regole di prudenza minimale, e poi soprattutto è stato molto sottovalutata la cosa, la gravità della cosa. Ma non crede che anche adesso, quello che è un po' la critica di Marco Politi, è questa annunciata voglia di cambiamento in realtà poi non si concretizzi in fatti veri? Cioè quando il cittadino comune legge anche questa idea di non l'obbligo di denuncia, non sono dei pubblici ufficiali, cioè sembrano dei distinguo che la gente normale non li capisce, perché anch'io non sono pubblico ufficiale, ma se so che il mio vicino di casa è un pedofilo, per la tutela dei miei figli e dei figli dei miei amici, di tutta la collettività, corro a denunciare. Sì, questo io penso che è ovvio, che anche se uno sa che è un pedofilo corre a denunciarlo. Il problema è che ci possono essere dei gesti, lei si ricorda quel bellissimo film Il Sospetto, proprio sì, sulla pedofilia, certo, ci possono essere delle situazioni ambigue in cui correre alla denuncia, in una situazione come quella italiana, in cui magari poi ci vogliono 10 anni perché questa persona, magari innocente, venga ripulita dall'accusa, è una situazione veramente difficile. Che ci sia una volontà seria è indubbio, perché lei sa che la prima cosa che ha fatto Benedetto XVI appena è diventato Papa è stato di recuperare il processo che era stato insabbiato del fondatore dei legionari di Cristo. Sì, è vero. E quello l'ha fatto subito, cioè non ha, e quello c'era una convenienza, se vuole, dal punto di vista della Chiesa enorme a tacere questa situazione. Quindi io direi che Benedetto XVI ha dato una lezione, continua a darla, nettissima. Poi certo la Chiesa è fatta di tante persone, e soprattutto l'inerzia di tanti anni in cui si era abituati a insabbiare, che non è facile da scardinare. Io penso che questa cosa che hanno fatto appunto a Monaco, di dare a un'avvocatessa è una buona cosa, perché ci vogliono occhi esterni alla Chiesa, non può essere tutto fatto solamente da sacerdoti che hanno anche, oltre che diciamo un pochino più di tolleranza per i loro stessi, però hanno anche delle logiche di potere, di amicizia, solidarietà, che sono difficili da scardinare, no? Ma io questo lo posso capire. L'argomento è molto delicato, insomma l'abbiamo trattato un po' velocemente, ma ci torneremo nei prossimi giorni, come sempre noi riprendiamo alcuni spunti. Vi ringrazio, la professoressa Lucetta Scarafia, editorialista dell'Osservatore Romano e insegna la Sapienza, e Marco Politi, vaticanista del Fatto Quotidiano. Ci trovate su Twitter @AlinoMilan, e noi ci troviamo domattina 24 mattino.